Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. I miei genitori mi avevano permesso da poco di abitare da solo, un piccolo appartamento che mi avevano intestato. Ero libero, almeno dalla famiglia. Ma non ero libero da me stesso. Le giornate erano stupende, calde, feste, mare e quello che ancora non avevo voluto fare per scelta doveva capitare. Trovare una ragazza, come tutti facevano nella mia compagnia. Beh, io non avevo mai sognato una donna nella mia vita. Sono Federico Fioroni, ho 29 anni, abito a Rimini e la mia passione è scrivere romanzi e disegnare. Ha delle passioni semplici, Federico. Scrivere romanzi e disegnare. Tutto quello che gli serve, gli basta stare su una scrivania, avere un computer evidentemente o un foglio su cui disegnare qualcosa. La puntata di oggi, grazie a lui però, che ha queste due passioni così semplici, è dedicata ad una cosa a cui io sono particolarmente affezionato e che sono i nostri gusti. Io ho sempre avuto la convinzione, l'ho capito tardi come tutto più o meno, che è quello che ci piace che ci rende quello che siamo. E la cosa più complicata è capire quello che ci piace. Vale per tutto, vale davvero per quanto riguarda gli studi, il lavoro, le passioni, ma prima ancora delle passioni. Capire quello che ci piace ci permette forse di vivere un po' meglio di quanto immaginiamo. E riguarda appunto anche il cibo, capire se ti piace il gorgonzola oppure no. E come in questo caso riguardano anche i gusti sessuali, cioè se ti piacciono gli uomini o se ti piacciono le donne, banalmente. E quindi oggi dedicata tutta a quella, tutto a capire quando avete capito che vi piaceva quello che vi piaceva. 349-238-6666, c'è un profilo Facebook se avete il computer aperto, ed essendo venerdì ed essendo le 4-10 minuti del pomeriggio è molto probabile che voi abbiate un computer aperto ma non abbiate voglia di lavorare, e quindi voi siete qui su profilo Facebook e voi siete qui Radio 24 e fate come hanno fatto Lau, che credo sia Laura, che scrive: a 3-4 anni chiesi a mia madre se in Piazza della Libertà ognuno poteva fare quello che voleva. Però non c'entra esattamente, no? Con i gusti. Cioè, non è male come aneddoto, Laura, però c'entra un po' poco. Alessandro invece scrive: porca vacca, ci ho messo 40 anni a capire quello che mi piaceva. Prima ero un tuttologo del piacere, adesso apprezzo due cose: la birra fresca e la pizza. Hai azzerato, è una sorta di downshifting dei gusti. Esther, dai 23 anni, quando sono andata a vivere da sola, ho capito cosa mi piaceva. E poi Silvio scrive: io capisco che una cosa mi piace veramente quando gli faccio la prova del 9, cioè la nego con forza, cerco di convincermi che non mi piace e nonostante tutto poi sento che quella cosa mi piace lo stesso. Silvio, è un po' contorta questa cosa, però capisco che sia un metodo che può funzionare. 349-238-6666, Roberto, ho capito che mi piace quello che mi piace quando da un momento all'altro inizio a sentirne un bisogno incontrollato e non trovo pace fino a quando non riesco a raggiungerlo. Qualsiasi sia la cosa che avete capito che vi piace, in qualsiasi ambito, davvero, che riguardi lo sport, che riguardi il vostro lavoro, che riguardi i vostri gusti sessuali, culinari, di cibo, di cinema, di cultura, di intrattenimento, qualsiasi siano, quando l'avete capito che vi piace quello che vi piace, magari anche come. 349-238-6666. La storia di Federico è una storia che risale a, credo, quasi una decina d'anni fa, quando aveva intorno ai 20 anni, e capire quello che gli piaceva in quegli anni non è stato particolarmente facile. Non avevo ancora la maggiore età e sapevo che qualcosa nella mia vita stava andando nel senso contrario rispetto a ciò che io volevo davvero. La mia storia parla di quel momento e di quei mesi che poi mi hanno rubato alcuni anni della mia vita. Era estate e i miei 17 anni stavano sfociando in una stagione stupenda sulla Riviera Romagnola. I miei genitori mi avevano permesso da poco di abitare da solo in un piccolo appartamento che mi avevano intestato. Ero libero, almeno dalla mia famiglia. Non ero però libero da me stesso. Le giornate erano stupende, calde, feste, mare e quello che ancora non avevo voluto fare per scelta doveva capitare. Trovare una ragazza, come tutti facevano nella mia compagnia. Beh, io non avevo mai sognato una donna nella mia vita. E invece quello che non stavo cercando arrivò più in fretta di quello che pensavo. Però lì è stato il top, perché 17 anni andare a abitare da soli, insomma, penso che sia il sogno di tutti quanti, insomma, fra i 17 e i 18 anni andare via subito di casa, avere autonomia, quindi in casa non potevo fare nulla di quello che poteva concedere, insomma, essendo più libero potevo anche magari conoscere qualcuno e poter avere anche una vita privata diversa, insomma, è stato quindi un cambiamento totale. Non ricordo nemmeno il nome, so che aveva 21 anni e i suoi lineamenti nemmeno li avevo notati. Lei era di Pavia e aveva la particolarità di avere un problema di leggera sordità all'orecchio destro, cosa di cui mi accorsi quando non rispondeva ad alcune domande. E sulle prime sembrava mi volesse evitare o che le dessi fastidio con le mie parole. Erano le 22, le 10 di sera, ed eravamo in un pub vicino al mare a Cesenatico, io e altri due amici, e bevevamo abbondantemente birra. Una famiglia con figli al seguito si siede accanto a noi, quasi di fronte. Fu inevitabile guardarsi. Fissavo quella ragazza non per via di un'attrazione particolare, ma solo perché il suo fare goffo la rendeva quasi buffa. Bene, a quel punto i miei amici mi spingono a invitarla al tavolo e siccome eravamo tutti un branco di timidi e insicuri, io sembravo quello con la maggior faccia tosta. Accadde tutto molto velocemente e funzionò. La mia condanna era arrivata. Mare, più ragazza 21enne, più estate, uguale sesso. Volevo sotterrarmi, ma non lo feci. Tentai solo di ubriacarmi, invano, per temporeggiare. È una cosa che ho sentito da sempre, proprio da quando ero bambino, però chiaramente crescendo le regole di vita imposte insomma un pochettino dalla famiglia ti facevano capire che era una cosa che non era da fare, quindi cercavo all'inizio di non cadere su questa cosa qui perché avevo paura insomma di sbagliare. Chiaramente da bambino sono cose che ti fanno confondere molto. Poi crescendo comunque non riesci più a tenerti dentro certe cose. Pochissimo tempo dopo ero sconvolto. Avevo appena fatto sesso con chi non avevo mai sognato. Quella ragazza mi aprì la porta ad un mondo che per 3 anni mi aiutò a nascondere la mia omosessualità, con fidanzate di facciata. Mi facevo del male e facevo male a loro. Beh, ora ho 28 anni, sono dichiarato ormai da 7. Lavoro come chef e scrivo romanzi per passione. Sono felice e sto conoscendo una persona speciale. Se ripenso a quella ragazza ora sorrido, ma tutti i giorni che ho sprecato senza essere me stesso li vorrei cancellare. L'unica cosa che mi solleva è che forse in tutto questo non sono l'unico. È difficile capire quello che ci piace. Quando siamo bambini forse non lo sappiamo nemmeno. Abbiamo solo dei bisogni e non dei desideri. E l'unico nostro pensiero è il cibo. O meglio, il cibo e la protezione. Poi crescendo i bisogni rimangono, ma arrivano anche i caratteri. E allora c'è quel bimbo a cui piace mangiare il salato e l'altro il dolce. Quello che non sta mai fermo e quello che chiacchiera tantissimo. Quello che vuole solo giocattolini da lanciare e quello che preferisce studiare le cose pezzetto per pezzetto. E poi si cambia ancora, e ci si raffina, e ci si complica sempre di più. E si diventa mano a mano tutti più diversi gli uni dagli altri. O perché si mostra come siamo realmente, o perché ci abituiamo ognuno a cose diverse. Quello che è sicuro è che siamo tutti definiti da cosa ci piace. E succede in ogni minuscola porzione della giornata. Da come ci vestiamo, a che persone frequentiamo. Da quale sesso preferiamo, a che libri amiamo leggere. Se è meglio la televisione o il cinema. Uscire o stare in casa, il mare o la montagna, il centro, la periferia, l'estate, l'inverno. E non c'è niente di giusto o di sbagliato, sono semplicemente diversi gusti, diversi modi di vedere il mondo. E ognuno ha il suo, al suo insieme, il suo mix. La somma delle cose che ci piacciono è la nostra carta d'identità, la nostra impronta digitale. La cosa bella però è che a differenza dell'impronta digitale vera e propria, possiamo cambiare e rimaniamo sempre noi, perché se cambiamo gusti, non è che diventiamo un altro. Restiamo noi, solo un po' diversi da come eravamo prima. Capire quello che ci piace. Però, quello sì che è complicato. In qualsiasi momento della vita e per qualsiasi tema. Perché non sai se ti piacciono i film western perché riguarda tuo papà e allora forse in fondo non ti piacciono davvero. O perché ti senti un cowboy. E non sai se ti piace la musica italiana solo perché ascolti solo quella. E ti fai sempre mille domande. perché prima di sapere se la carne di cavallo è buona la devi assaggiare, e poi non capisci se non ti piace perché sai che è di cavallo e allora è per quello che ti fa impressione, oppure perché ha un sapore oggettivamente cattivo, se ce l'ha. Insomma, non è facile capire certe cose. E a volte non le si capisce proprio. Quel che è certo però è che ogni giorno ci devi fare i conti, perché ogni giorno ascolterai la radio, guarderai la TV e cambierai canale oppure no, e deciderai cosa fare stasera, o come fare il tuo lavoro, o anche solo cosa ordinare a pranzo. E qualche volta ti verrà voglia che qualcuno decida per te, che sia qualcun altro a prendersi questa responsabilità e che ti dica: a te piace questo, tu sei così. Non è in fondo un po' quello che chiediamo anche all'oroscopo, ad esempio? Cioè che se sei dell'acquario ti piacerà la dolcezza e amerai le coccole, ma non le persone sdolcinate, perché lo dice l'oroscopo. E così ti si risolve un tratto del carattere, cioè sai quello che vuoi. Ecco, a me non succede quasi mai, perché gli oroscopi un po' ci prendono e un po' no, e gli altri ci conoscono meglio e ci possono dire qualcosa di come siamo, ma siamo alla fine noi che ci conosciamo meglio. Niente, non c'è niente da fare. E a volte non ci piace quello che sentiamo, non ci sembra giusto, non vogliamo neanche ammetterlo. Eppure ci tocca farlo, perché per vivere bisogna assecondare tutte le nostre inclinazioni. A scuola mi ricordo che quello che invidiavo di più era un bambino che si chiamava Giacomo. Lui era bravissimo in matematica, non era particolarmente simpatico o intelligente, però sapeva bene che cosa gli piaceva. Sapeva cosa voleva fare. E non veniva a giocare a pallone, ma stava lì e si faceva i conti. E si capiva che non era un disadattato, perché parlava, sorrideva, era normale. Certo, non era una gran compagnia. Eppure lo invidiavo, perché se sai quello che vuoi, sei già a metà strada. Per noi altri è tutto molto più difficile. Devi andare avanti per prove ed errori, devi leggere libri, guardare film, sperimentare e scoprire se qualcuno è come te e fare un sacco di esperimenti. E quando scopri qualcosa che ti piace, la devi coltivare. Devi diventare te stesso, ma con un gusto nuovo. Siamo dei piatti di alta cucina, ma la ricetta non è scritta da nessuna parte. Tipo, nel mio caso, se non ci fosse Tiziano Bonini, io non avrei mai scoperto che mi piaceva così tanto The Tallest Man on Earth, che è il cantante e autore del brano che state sentendo adesso, che si intitola Little River, che è tratto da... questo è l'ultimo disco, vero Tiziano? È tratto da l'ultimo... Ah, ok. Questo è il primo? È il primissimo questo. A proposito di brani che mandiamo in onda, vi ricordo che sul sito di Radio 24, passando attraverso il profilo Facebook del programma che voi siete qui, Radio 24, trovate tutta la playlist che Tiziano ha selezionato e scritto, quindi il regalo, insomma, grazie per il regalo, lo dobbiamo a lui. Sono 615 brani, tutti mandati in onda durante la stagione di Voi Siete Qui. E tra l'altro mi scrive, non so chi... Vorrei fare bella figura con una ragazza. Non è che Bonini delle 600 canzoni non ci fa una playlist delle 15 canzoni preferite? Almeno la seratona è garantita. Senti, visto che si parla di gusti, fai così: sceglitene tu 15, almeno la bella figura la fai direttamente tu e non devi dire no, è che me le ha scelte Tiziano Bonini. 349-238-6666. Arrivano messaggi su come si è scoperto quello che ci piaceva, ma tutto è partito dal racconto di Federico. Pronto Federico? Pronto, ciao. Come stai? Ciao. Benissimo, benissimo. Dove sei? Sei al lavoro? No, sono rientrato, però fra due orette riattacco ancora, chiaramente. Perché poi tu sei un cuoco? Sì, sono un cuoco. Sì, scusami. Sì, adesso sono in piena stagione. Ma c'è differenza tra cuoco e chef? C'è differenza, sì. E tu sei un cuoco o uno chef? Perché io sono un cuoco non diplomato, chef, chiaramente, perché sono cresciuto in una famiglia di ristoratori, quindi chiaramente sono cresciuto tra i fornelli. Quindi, cioè, quindi hai fatto esperienza, diciamo, sul campo. Mi sono specializzato sul campo, ecco, insomma, questo. Senti, mi dici quali sono gli orari veri e propri di chi fa il tuo mestiere? Cioè, perché tu prepari pranzo allora, e cena, giusto? Sì, sì, sì. Il mio orario è praticamente dalla mattina verso le 9:30 fino al pomeriggio alle 3 e poi dalle 6:30 fino alle 11. Diciamo. Quindi, scusami, quante ore sono? Perdonami, la matematica non è proprio... 11-12 ore, dipende poi dalle volte. Oggi ho smesso che erano quasi le 4, quindi... Perché tu sei di Rimini e lavori vivi a Rimini. Sì, vivo a Rimini e comunque lavoro a 1 chilometro da casa, quindi sono più che contento, insomma. Quindi, insomma, adesso è cominciata ad arrivare gente a Rimini? Adesso si sta riempiendo abbastanza, sì. È un turismo molto straniero, non italiano, un turismo... tedesco, russi, tantissimi russi anche. Senti, invece, torniamo alla questione dei gusti, no? Certo. Noi abbiamo estrapolato questa cosa dal tuo racconto, che è proprio molto chiara, no? Cioè, capire quello che ti piace ti permette semplicemente di essere più sereno, quantomeno, si spera più felice, però in generale più sereno. Tu ci racconti di quando hai capito che cosa non ti piaceva, in sostanza. E poi invece, come funziona? Che hai incontrato una persona, banalmente hai capito che ti piaceva un'altra cosa? No, in realtà è una cosa che senti, come ho detto prima, che si do da fin da piccolino, però chiaramente se sei un po' portato ad avere insomma paura di aprirti anche in famiglia, così dopo è un problema, insomma. E invece piano piano, poi crescendo, cioè, si intuisce in modo molto facile, cioè, lo senti in modo naturale, come se okay. dici no, ma il cioccolato non piace, quindi non lo mangio, insomma. Cioè, sì, esatto, è una questione di gusti, no? Tipo il pistacchio, sì. Io l'ho sempre detestato. Poi invece la cosa strana è che ogni tanto i gusti cambiano, tipo io da piccolo odiavo il gorgonzola e adesso anche, sì. ne mangerei tonnellate. Senti, questa qui è una cosa che hai dentro proprio, però, e viene fuori chiaramente piano piano. C'è chi magari lo esprime da subito e chi magari, anche per non dare delusioni o creare dei problemi, non lo tira fuori subito, comunque lo certo. sa chiaramente. Certo, senti, io volevo chiederti una cosa, diciamo, più ufficiosa, per magari farne un'ansa. Certo. Vuoi rispondere qualcosa a Cassano? No, è una battuta, ovviamente non ti chiederei, non siamo quel tipo di trasmissione e anche chi se ne frega, era una battuta. Io a Cassano non avrei fatto neanche una domanda. Li ho visti allarmati di là in regia, credevate fossi serio, per un attimo. Benissimo, allora qua qualcuno scrive: ho scoperto dopo 19 anni di matrimonio che la libertà non ha prezzo, Riccardo. Però Riccardo, occhio, perché non vale se te lo fa scoprire qualcun altro, cioè se sei obbligato a rimanere da solo. Senti Federico, dimmi che cosa cucini questa sera. Stasera dipende dal menù, perché il menù è... Scusami, sei partito con un... stasera, guarda, stasera cenona. No, dipende dal menù, perché il menù è quasi tutto a base di pesce, carne ne facciamo pochissimo, quindi antipasti, primi, secondi, tutto a base di pesce, insomma. Ma scusami, tu sei addetto ad una cosa particolare, nelle cucine no, ci si divide... No, io faccio tutto, io sono un cuoco completo, preparo antipasti, primi e secondi, poi dopo ho un aiuto, comunque il resto preparo tutto io, faccio tutto io. Ma tu sei il capo in cucina? Sono il capo, sì, sono quello che comanda. E hai 28 anni? Sì, sì, sì. Scusami, è normale che in cucina il cuoco sia così giovane? Che crescendo in famiglia come lavoro, alla fine cominci piccolissimo, cominci da 14 anni a fare l'aiuto cucina con mio babbo, e quindi automaticamente a 28 riesci già a avere un bagaglio di esperienza non indifferente. Senti, la domanda che faccio a tutti quelli che fanno lavori interessanti: quanto si porta a casa facendo il cuoco? Non te lo posso dire. Come non me lo puoi dire? Mi hai detto una cosa molto più intima. Dai, dipende, dai, fra i 2,5 e 3.000 euro al mese, insomma. Ma puliti? Sì. Niente, Boni dall'altra parte mi dice più di un professore associato. Giustamente ognuno pensa al suo, dice: ma come, ho studiato 15 anni. Senti, anche chi prende di più, in albergo d'estate prendi anche 4.000 euro al mese. Federico, ti ringrazio per la chiacchierata, per il racconto, e ti lascio andare a riposare, perché tra un po' si riattacca, giusto? Sì, fra un pochino, sì. Ti ringrazio. Grazie ancora, buona estate. Ciao Federico, grazie. Mi piace far ridere perché sono uno triste. Alfredo. È un autoscatto e sono pronto a giurarci quello che si è fatto Federico, e che trovate la foto, la trovate sul sito di Radio24, alla pagina di Voi Siete Qui. Ha su una felpa col cappuccio, i capelli corti con un ciuffo un po' banana qua davanti, come si dice, quelli che... quando ti metti le mani nei capelli e te li sistemi male. Non fa la faccia simpatica, ma lo fa di proposito. Ero di quelli che... no, non voglio fare la faccia divertente, voglio fare la faccia cattiva. Ha un piercing sulle labbra e a dire la verità, più che in una cucina, sembra quasi nella cella di un carcere. Ma solo perché ha uno sfondo grigiastro alle sue spalle. 349-238-6666... come e quando avete scoperto che vi piace quello che vi piace? A 13 anni fa ho messo piede per la prima volta su un campo da baseball, e da lì non ho più smesso e ho capito che mi piaceva. Andrea, l'ho capito quando ho visto Erika, l'altra metà della mia vita, ho capito cosa mi piaceva. Marco da Verona. E poi ancora andare a cavallo, mi piace... questo è straordinario. Mi piace ogni tipo di sport, e lo so da quando da piccolo non scendevo a giocare. in strada, ma rimanevo in casa a guardare il Giro d'Italia. Quindi, allora, diciamo che ti piace, esatto, ti piace guardare ogni tipo di sport, che vale, eh? Cioè, non è che non valga. E poi Letizia mi scrive: com'è possibile? Pensavo che dopo il live non saresti più stato in onda, invece ci sei. Ci sono, ci siamo in onda in diretta fino a venerdì prossimo, che è il 29 di giugno, e poi per tutto il mese di luglio andrà in onda una serie di puntate che possiamo definire il meglio di, lo possiamo definire così, che sono, che più o meno le migliori puntate della stagione, ripresentate, rimpastate e servite calde per il mese di luglio. 349-238-6666 ancora. Ho capito che mi piacerebbe sapere quello che veramente mi piacerebbe fare, ma ancora non l'ho capito. Amedeo. PS, ho anche capito che prima ho inviato l'SMS ad un numero sbagliato. PPS, piacevole errore. No, questo non si spiega. A meno che l'SMS sbagliato abbia fatto partire qualcosa. Ragazzi, ormai il modo per broccolare: si mandano SMS a caso pur di broccolare. SMS tipo: allora perfetto, ci vediamo domani, via, a numeri sbagliati. Qualcuno: ops, non ero io. Ah, scusa, ho sbagliato numero. Ma chi sei? Vabbè, basta questa scenetta orribile, perché adesso dobbiamo passare a una parte più seria. Perché quando parlavamo di gusti e di capire chi siamo, e soprattutto del fatto che siamo quello che ci piace, Tiziano ha tirato fuori una di queste chicche che ogni tanto tira fuori, ed è un libro scritto nel 1979 da un sociologo francese che si chiama Pierre Bourdieu. Si intitola La distinzione, critica sociale del gusto. In sostanza, la cosa che lui ha fatto è stato andare in giro per 5 anni, dal 63 al 68, quindi parliamo di un bel po' di anni fa, quindi non è che vale come fotografia della società di oggi. Si parla di più di 40 anni fa e si parla della Francia. Lui è andato in giro tra Parigi e Lille a chiedere empiricamente che cosa ti piace tra questo, questo e questo, in fatto di cinema, musica, cultura, giusto, più o meno, gusti culturali. Quello che è venuto fuori è, diciamo, una fotografia sommaria di come le cose semplici piacciono ad una certa classe sociale, quelle più complicate piacciono ad un'altra, e quelle che stanno di mezzo sono più o meno trasversali. Detta così è una cosa abbastanza banale, in realtà è assolutamente fondante. Vi ripeto, questa cosa che sto per leggervi si chiama Critica sociale del gusto, la distinzione, è stata scritta nel 79 da uno, possiamo dirlo Tiziano, da uno dei maggiori sociologi, giusto? Possiamo dire. Di sempre? È ancora vivo? No, è morto. Quando è morto? Chi lo sa, vabbè. Pierre Bourdieu, La distinzione, critica sociale del gusto. Nell'universo dei gusti particolari si possono distinguere tre universi di gusti, che grosso modo corrispondono a tre livelli scolastici e a tre classi sociali. Il gusto legittimo, cioè il gusto per le opere legittime, che in questo caso sono rappresentate dal clavicembalo ben temperato, aumenta con il livello scolastico e raggiunge la frequenza più alta tra le frazioni delle classi dominanti, quelle più ricche di capitale scolastico. Vi è poi il gusto medio, che riunisce le opere minori delle arti maggiori, in questo caso la Rapsodia in blu, ed è più frequente tra le classi medie che non tra le classi popolari o le frazioni intellettuali della classe dominante. E infine, il terzo, è il gusto popolare, rappresentato in questo caso dalla cosiddetta musica leggera o dalla musica colta ma deprezzata dalla divulgazione, come il Bel Danubio Blu. E soprattutto da canzoni completamente prive di ambizioni o di pretese artistiche, e raggiunge la sua massima frequenza tra classi popolari e varia, in ragione inversa, al capitale scolastico. A proposito di stipendi, informati su quanto si prende a condurre un gregge sugli alpeggi. Ecco, questi messaggi, ne è arrivato anche un altro che diceva: oh, guadagna più di me, che c'ha 18 anni di esperienza, non mi ricordo più in che cosa, guadagna più di me a fare il cuoco. Ecco, però io vorrei anche dire una cosa, però uno deve starci con le greggi di pecori sugli alpeggi, e uno deve starci in cucina 12 ore al giorno per 7 giorni su 7, no? No, perché sembra sempre che sia quasi un affronto il fatto che uno che fa il cuoco guadagna 2.500-3.000 euro, poi evidentemente guadagna molto di più, se no ci avrebbe detto ancora di meno. Sai cosa? È che lunedì abbiamo la storia proprio di un cuoco, e magari ne parliamo direttamente con lui. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Federico, e parlava di gusti e non solo sessuali. Quella di lunedì è la storia di Alberto, e parla di lavoro. Il lavoro del cuoco è duro, ma le soddisfazioni, se sei bravo, sono tante. L'ambiente dove lavoravo era diventato come una famiglia. D'altronde, con i colleghi, ogni giorno passavo in media dalle 10 alle 14 ore lavorative. E quando sacchi a mezzanotte, nessun amico ti aspetta. Per uscire, quindi, non è strano che i tuoi colleghi diventino anche i tuoi migliori amici.